fatta l'effusione. No conigli, neanche più un leone. C'era un giorno la voglia di avere di più. Si poteva sperare di andare più su. Perdere tutto, ma non la fantasia.